Aimez-vous la violence? Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Era una notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69 all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Vorresti seguire Radio Città Fujiko più spesso, ma per il lavoro e gli impegni hai poco tempo? Iscriviti alla newsletter settimanale Fujiko Weekly e ogni venerdì riceverai gratuitamente una selezione del meglio della produzione di Radio Città Fujiko. Se vuoi ricevere la newsletter per mail, inserisci il tuo indirizzo nell'apposita sezione sul sito www.radiocittafujiko.it. Se invece preferisci riceverla sullo smartphone, iscriviti al canale WhatsApp o al canale Telegram della tua radiolinea del cuore. Trovi tutto sempre su www.radiocittafujiko.it. Festival Diritti Umani sulla tua pelle, sulla nostra pelle. Storie che segnano. 19, 20, 21 gennaio a Bologna, un viaggio al cuore dei diritti umani. Dibattiti, esperienze dirette e proiezioni di cortometraggi con la partecipazione di associazioni locali e internazionali. Due giorni dedicati ai diritti ambientali, ai diritti delle donne e dell'infanzia. Un evento finale per far incontrare cittadinanza e politica. Educazione ed empowerment mettono a segno i diritti. Organizzato da Geopolis e Paideia. aggiustamento di vanta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E credo che ci siamo senza ombra di dubbio. Buonasera, ladies and gentlemen, e buon 2024. Salve. Benvenuti su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, www.radiocittafujiko.it. Questo è Panta 80, io sono Panta, di là dal vetro c'è Andrea, e no, non è cambiata una mazza rispetto al 2023. Quindi no, lo dico come informazione di servizio, insomma, è sempre... Ma no, ma perché? Ma perché in realtà per me formalmente l'anno è davvero cominciato ieri. Ah sì? Sì, perché devi sapere che il mio anno è finito bene, una festa fra amici, mm-hmm. E quello che tutti dichiarano essere stato il primo di gennaio 2024, la signora non si è sentita benissimo, per cui l'ho dovuta portare, ho passato il supposto primo dell'anno al pronto soccorso. Che insomma, allora, siccome io sono un uomo molto superstizioso, ok, che mal si confà alla nostra acuta intelligenza, per cui chi fa una cosa il primo dell'anno la fa tutto l'anno. Quindi facciamo corna, bicorna, stracorna. Esatto, diciamo che io mi sono rifiutato, cioè io ho fatto il gran rifiuto. Ok, come il coso, bella, come il Papa Celestino V. Come Celestino V, io conterraneo. Esatto. Ecco, e quindi cosa ho detto? Io ho continuato a contare gli anni come se fossero altri giorni, scusatemi, come se fossero altri giorni di un lunghissimo dicembre, e quindi ho decretato l'inizio del 2024 domenica, quando la fanciulla è finalmente tornata a casa. E visto che si parlava di papi, e questa sarà l'ultima volta in cui si parlerà non credo in questa radio, ho fatto, mm-hmm, come Gregorio XIII, ovvero? Cioè siamo andati a letto, che era, secondo i miei rapidi conti, il 44 dicembre del 2023, e mi sono svegliato. Ci siamo svegliati la mattina dopo, che era il 14 di gennaio 2024. Così è, così come Gregorio XIII, che ha fatto il tempo moderno e ha modificato il calendario mandandoli a letto il 5 di aprile, facendoli svegliare il 12, il 14, non ricordo. Così Panta 80 ha fatto questa cosa. Sai che mi piace tanto questa, anzitutto è nozione di cultura generale, esatto, che ragazzi e ragazze vi potete e ci possiamo spendere, perché mi ci metto anch'io, insomma, quando insomma volete sfoggiare un po' di cultura così a caso e farvi un po' gli smargiassi, usatelo pure, è gratis. Dite che è una carezza di Panta 80. Questo è bellissimo, questa quanto ci farò la clip. Eccellente. Comunque, oggi siamo ritornati finalmente in diretta. Esatto, a tutta velocità per oggi. Per oggi, basta. Perché domani. Da domani. Io già sto sudando freddo, perché comunque lo vogliamo ricordare, sì, domani. Ufficialmente Bologna diventerà una città 30. Esatto. Non degli anni 30, non entriamo negli anni 30 del 2000 con anticipo, ma andiamo tutti a 30 all'ora. Tutti a 30 all'ora. La bimba mia. Cioè, ci pensi, ma non. Cioè, Morandi non l'avrebbe trovata la bimba sua. Ma no, sarebbe arrivato ora. Sarebbe arrivato tardi. Nonostante quelle manone, sarebbe arrivato tardi. No, allora io mi rendo conto di avere una posizione impopolare, perché comunque capisco il ragionamento sotteso alla Bologna città 30, ma devo dire che a me, che sono costretto a muovermi con una certa frequenza all'interno della città, oggi anderiando da Zola Predosa due volte, grazie ai ragazzi della tipografia che non mi hanno avvisato che non erano pronti dei materiali, vi voglio molto bene, e quando vi arriverà Garella saprete da chi è che ve l'ha mandata. E il pensiero di dovermi muovere ai 30 all'ora, mm-hmm, mi fa lo stesso effetto che una Spilla da balia arroventata che mi trapassa un capezzolo. Quindi dolore e ho detto capezzolo, potevo dirvi peggio. Dolore. Quindi noi, in pieno stile Panta 80 dell'irriverenza che ci contraddistingue, questa sera faremo una puntata di assoluta ignoranza per dimostrare tutto il nostro dissenso. Esatto. Ok. Questa cosa mi dà più fastidio dell'aumento ulteriore dell'inutile biglietto. Lasciamo dell'inutile perdere. People Mover. Lasciamo perdere. D'altronde anche il Blue Monday hanno detto oggi. Tra l'altro. Questo è del lunedì est. È del lunedì est. Capito? Quindi. Esatto. Per cui. Molto bene. Quindi allora. Io direi di partire nella maniera più scontata, però necessaria al tempo stesso. Quindi partiamo a razzo per l'ultima volta. Oppure metaforicamente noi continueremo a farlo. E quindi accumuleremo. Rispettando i limiti di velocità della Panta 80 Time Machine. Esattamente. Ladies and gentlemen, Blue Monday. In sella alla bersagliera! Yeah. E così abbiamo cominciato bene bene, ma bene bene bene bene bene. Peraltro questa puntata era programmata per il 1° di gennaio. Porca miseria. E abbiamo millantato, ci abbiamo provato, avevamo preparato di tutto. Poi io il 1° di gennaio, quando era ora di trasmettere, ero seduto in una poltroncina fuori dal pronto soccorso del Sant'Orsola, quindi non ho potuto. E io dirò una cosa, sperando che chi di dovere non ascolti in questo preciso istante. Io mi ero organizzato per venire e ritornare qua a Bologna, perché ero in Abruzzo. Tornare a Bologna il 1° di gennaio. Non per il pranzo che dovevo ma per trasmettere. Lo sai che tu non devi svelare queste cose. Primo, perché io mi sento in colpa. Secondo, perché poi per le repliche questa parte magicamente sparirà, verrà tagliata, tipo sparirà. Capisco. Perché tu hai la certezza che adesso non ti sta ascoltando? Era una burla. Tra l'altro, a proposito di burle di zona 30, 40, 50, la gallina canta. Se volete, ci potete mandare SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, al 333 1809 494, per interagire con noi. Anzi, diteci che cosa ne pensate di Bologna Città 30. Dai, noi siamo pronti a accettare le critiche. Noi sappiamo di avere una posizione poco di moda dal punto di vista, diciamo, del posto da dove trasmettiamo, quindi ma siamo pronti, no critiche, solo complimenti, una volta si diceva. E invece no, noi siamo pronti, siamo scafati, siamo rotti a qualunque esperienza. Io in questi giorni mi sono studiato letteralmente la cartina. Tu hai veramente una paura fottuta delle multe. Sì, perché io ho un Opel Corsa che, ok, corre solo di nome. Molto però bene. I 40, i 50 li fa, anche i 60, volente o nolente. In discesa col vento a favore. Vabbè, ogni tanto ci sono qua le condizioni ideali. Io ho una paura indicibile che arrivo tipo a 33. Che ne so, che no, mi piace come fino appunto, a 5 km di margine, secondo me te li danno. Fino a 35 va bene. Però lo sai anche qual è il punto? È che il contachilometri della macchina non è affidabile, non è affidabile. Il mio, per fortuna, ho capito che più o meno va tra i 3 e i 5 km orari in meno rispetto a quello che fa. Però quando sono in autostrada l'ho calcolato, segna 100. Vado con Google Maps, mi fa 95, okay. Però con il chilometraggio orario più piccolo è più preciso, ma non lo so di quanto, tutto ciò è molto difficile. Sto studiando, quindi comunque studiando. Io oggi ho fatto una prova. Attenzione. È stato bellissimo. Perché io credo che morirò per gli accidenti che mi hanno mandato entro la mezzanotte. Quindi voglio vedere domani. Sarà bellissimo. Sarà bellissimo. Andiamo col prossimo brano finché posso ascoltarlo. Okay. Prima che mi si attacchi tutto quello che mi hanno mandato. Va bene. No, guarda, non te lo annuncio nemmeno. No, mi siedo. Prima scambi la nostra Cadillac con un microfono. Poi mi dici un sacco di bugie sulla banda. E adesso mi fai ritornare dritto dritto in galera. No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio. Leave me be. bello e vibrato. Bello lo sai, vibrato, fa tutto, fa tutto. È come il secondo bottone della camicia sbottonato. Cambia tutto. Quindi, stasera citazionismo spinto, salutiamo i ragazzi dello Stato Sociale. E, allora, fuori onda ci stavamo facendo i fatti nostri, come sempre. Come sempre, come sempre. Mi hai svoltato questi 10 esatto, minuti. Perché è partita la canzone, io ho apprezzato in maniera particolarmente plateale l'attacco del pezzo, perché io amo moltissimo gli AC/DC, e poi ho lanciato la bomba ad Andrea, così boom, ho detto, proprio 29 giugno 2024 andiamo a sentire i Dogstar, la band di Keanu Reeves, e lui mi ha detto vabbè, io voglio molto bene a quell'uomo, però ma dove suonano? A Bologna. E l'ho visto in e lì le difese di Andrea hanno vacillato, ok, quando poi gli ho detto che è al Bonsai Garden, quindi alle Caserme Rosse, il palco piccolo, cioè lì solitamente massimo 1000 persone ci possono andare, esatto, e lui mi ha detto ma massimo 1000 persone, gli ho detto sì ma sono i Dogstar, e lui fa ma c'è Keanu Reeves, sì ma sono i Dogstar, cioè forse i parenti li vengono ad ascoltare, capita la mia percezione per evento, cioè proprio il termine e il concetto di evento, esatto, per sarebbe cui bellissimo. E fuori fai la birra con Keanu Reeves, no, sarebbe spettacolare, pensi che lui potrebbe tranquillamente scendere dal palco e venire, ma e venire in mezzo alla gente a farsi delle foto e a bersi delle birre insieme, perché è un uomo puccettoso, ma sì, non Keanu, te caperoni, esatto, no vabbè, cioè facciamo il cartello Keanu, come down and have a peroni with us. Dai, cioè, è perfetta. Scende, sicuro, bello, garantito. Bellissimo. Se ce la facciamo, ne avrete testimonianza, amici e amiche di Radio Città Fugito. Me le devo segnare queste cose, perché se no. Continua. Io molto faccio bene. Il piano. Fai il piano per Keanu? È fantastico. Ma sono in forma stasera, ragazzi. Ci mancavamo, ragazzi, vero? Ok. Attenzione, ok, perché qui ci ascoltano, ok, essi ascoltano, no esse ascoltano e mi dice ma no dai, il 29 giugno no, allora vengo anch'io, e quindi già i biglietti diventano 3, va benissimo, quindi allora, insomma, quindi vabbè, continuano a scrivermi cose, va bene, abbiamo scatenato, diciamo, l'entusiasmo non soltanto del sottoscritto, assolutamente, ecco. Assolutamente bene, benissimo. Allora, io sai che ti dico, perché nel frattempo vedo che è Armage, perché significa che Keanu Reeves Bologna 29 giugno ha sconquassato ormoni e curiosità anche. Io direi di continuare con mettiamo un pezzo, perché sono le 21:25 e poi andiamo in pubblicità. Okay. Molto bene. Ok, dai. Un tuo carissimo amico, un amico di Panta 80. Anche insomma, anche una birretta con lui me la farei volentieri. Dai, zio Bruce, secondo me, sempre. Si può fare. Sempre. Sei sicuro di non andare troppo veloce? Se non ti fidi, puoi sempre controllare. Allora perché la polizia ci insegue? Ma non saprei. Dopotutto io sono un computer, non un indovino. Una cosa è sicura, caro cervellone. Non intendo farmi appioppare una multa per un'infrazione commessa da te. Torna la terza edizione di Collagene al DAS, dispositivo arti sperimentali. Dal 20 ottobre al 19 gennaio, 12 progetti multidisciplinari. Musica, danza, teatro, poesia, arti visive e sperimentazioni sonore. Collagene, terza edizione al DAS, via del Porto, 11/2, Bologna. Info alla pagina Instagram, das.bologna. Venerdì 19 gennaio, Sequence Exchange di Polymorphism, Big Time Sensuality di Marca Cellamare e Emiliano Albor Boscato e la videoinstallazione I Giganti di Maria Giovanna Sodero. L'arte bolognese è più viva che mai. Il Museo Civico del Risorgimento organizza Bologna Pittrice il lungo 800. Fino al 17 marzo, visite guidate, laboratori, una rievocazione storica e tre grandi mostre dedicate alla pittura bolognese dall'età napoleonica all'inizio della Grande Guerra. Ti aspettiamo per scoprire insieme il grande patrimonio artistico della città di Bologna e dei suoi pittori. Iniziativa promossa dal settore Musei Civici di Bologna. Informazioni su museibologna.it. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco. Fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346 708 20 65. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346 708 20 65. Di fronte a un modello di sviluppo sempre più in difficoltà e alla crisi di egemonia degli Stati Uniti, i venti di guerra che soffiano sempre più forte ci pongono domande sempre più attuali. Stiamo andando verso un conflitto mondiale? A quali tipi di guerra stiamo assistendo? Com'è possibile che sull'orlo di un conflitto nucleare, invece che lavorare per il disarmo, si stia andando verso un riarmo generalizzato? Diventa sempre più urgente la costruzione di un'opposizione politica e sociale attiva alla tendenza alla guerra. Ne parliamo con Michele Lancione, Giacomo Marchetti e Alberto Negri, venerdì 19 gennaio, ore 18, al Centro Sociale della Pace in via del Pratello 53. Organizza la Rete dei Comunisti. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. E rieccoci qua, rieccoci qua. Ovviamente, adesso ci è presa la scimmia. Noi volevamo parlare di Bologna città 30, però in fondo anche chi se ne fa, volevo dire. Tanto domani la città brucerà e arderà di fuoco e fiamme e di bestemmie. Che in effetti stiamo parlando comunque di viaggi in un certo senso, sì, comunque luoghi, sì, al di là, dove quindi possiamo andare più di 30 all'ora, più di 30, 40, 50, 60. Comunque ti dico che nel mio telefono è apparso un messaggio che dice: comunque il 29 di giugno no, sarà caldo, ma io avrò i piedi freddi. Quindi non lo so, cioè sono messaggi criptici, non sembra di giocare a qui Radio Londra. Però vabbè, comunque, detto questo, stavamo ipotizzando viaggi che per, guarda, il punto è che per raggiungere dove Andrea vorrà essere il 9 luglio, che io ancora non so, 2024, ok, in realtà dovrà partire per tempo, perché sai, dovendo uscire dal tessuto cittadino ai 30 all'ora ci vorrà il suo tempo. E no, tu il 9 luglio vuoi andare a Milano? Vuoi andare a Milano agli High Days Festival? Te lo dico, cioè, te lo dico perché ci sono due concerti quel giorno lì. Cioè ci sono, ok, ti dico quello che ti interessa di meno. Ok, ci sono i Sum 41. Va bene. Tu che nome abbini ai Sum 41 con un po' di pensiero laterale? Avril Lavigne. Bravo. È vero. Il 9 luglio a Milano agli High Days Festival c'è Avril Lavigne, e voi non lo capite, ma c'è un biondismo che proprio Andrea sta ridendo come un bambino scemo, ok? Perché non, cioè, è proprio il, non so come dire, il gongolismo da... Sì, fai pure, prendi... No, perché io mi sto immaginando la scena di me con maglietta degli Alice in Chains, mezzo borchiato, Dr. Martens del 2008, e no, non sto esagerando, sono davvero del 2008, tutto quanto così, è che urlo complicated. Lo so, è così. Barba, cose, tutto il re, complicated. Lo so, e ti dico con la stessa emozione che se non fosse che io l'anno scorso, il giorno del mio anniversario di matrimonio, ero a Roma a vedere i Guns N' Roses, salutò con la santa donna di mia moglie che non ha ancora divorziato, e per questo le perdono anche di avere i piedi freddi il 29 di giugno, e quindi io non posso organizzare, diciamo che la prima decade di luglio mi è preclusa per scelta di vita, allora, cioè proprio April. Per la vita, ok, allora. Perché sennò verrei a vederla, April, con te. Solo per filmarti. Allora, e avere materiale per i prossimi 10 anni. Quando è stato l'anno scorso, 2 anni fa, era venuta in Italia, credo sempre a Milano. Io non ci sono andato per una questione di non lo so, però io ti dico che mia moglie ha detto ah, c'è Avril, figo, secondo me possiamo valutare di fare un'uscita di gruppo per andarla a vedere, valuta tu, e in realtà non sa quanto è figo vederti ad un concerto. Giusto per dire un po', per dare qualche spunto in più ai radioascoltatori in mazza, non lo diceva manco Marconi, io ho un problema con quello che definisco il biondismo, esatto. Ovvero sia, nel senso, mi piace il capello biondo. Ma tu lo stai dicendo davvero in diretta radio quando potrebbe ascoltarti Margherita, capisci? No, perché è una cosa conclamata che è accettata socialmente. Sì, accettata è la parola giusta. Accettata, brava, socialmente. Andrea. Poi vedete voi se dal punto di vista del verbo accettare, nel senso dire sì, ok, ne prendo atto, oppure sì, ok, ne prendo atto e quindi... E prendo la mira, esatto. Però insomma è questo. Lo so. Faccio Iron Maiden, Opeth, Blackthorn, Darkthron, scusate, Avril Lavigne. Esatto. Ma peraltro voglio dire che il 29 maggio ci sono i Metallica. Già visti anch'io, in effetti. Soddisfatto. Sì. Visti, apprezzati, non so se tornerei. Però ci sono anche i Five Finger Death Punch, gli Ice Nine Kills. Sto andando avanti. C'è Lana Del Rey, attenzione. Io andrei ad ascoltare anche Lana Del Rey, te lo dico. Okay. È 4 giugno. Mi sono divertito molto. I Bring Me the Horizon, così se vuoi un po' di sano emo. No, grazie. Anzi, sai che cosa ti dico? Dimmelo. No, non te lo dico. Dimmelo. Assolutamente. Io direi semplicemente questo, che possiamo partire con la prossima canzone. Mi sembra direi, giusto. Comunque 16 giugno Green Days, è così. Green Day? Sì. No, non mi interessa. C'è Avril Lavigne, chi se ne frega di tutto il resto, cioè voglio dire, cioè, io prendo la macchina, facciamo una macchinata e partiamo. Allora, spostati. Ciccio, allora. Ho capito, stai calmo. Non li fai fare. Ciccio! Ho capito, ma rilassati. E sei aggressivo in macchina, Giacomo. Sì, ma alle 6 del mattino sei già così incazzato. Sì, devi essere così. A mezzogiorno che cosa fai? Tiri le bombe a mano, tu? Le ho preparate lì nel baule. Bam Bum Bim, bim bum Deep bam. Purple Highway Star, peraltro se non l'avete mai sentita, ed è impossibile se ci seguite, andate a cercare la versione dei Buck Cherry dedicata alla colonna sonora della NASCAR Racing, che è ancora più ignorante. No. Posso dire una cosa? Sì. Non ti piace, lo so. Mi piace l'attitudine. Sì. Quindi l'apprezzo per quello, però... Io però sento il motore delle NASCAR e questo mi piace molto. Lo so. Purtroppo sono un feroce ignorante. Peraltro... Il biondismo. Peraltro avevo detto che non mi sarei sottratto al confronto, quindi ringrazio Paola che ci ha scritto dandoci segnalandoci che le vie di scorrimento di entrata e in uscita alla città e tante altre vie rimangono ai 50. Ci ha mandato anche la mappa delle vie 50. Io ringrazio anche 50, perché comunque ogni volta via 30. La trovo. Esatto, io semplicemente mi limito a dire, guarda, ognuno ha una prospettiva secondo me collettiva e personale rispetto alla propria esperienza. Per quanto riguarda i tragitti che io faccio praticamente tutti i giorni, soltanto una via rimane ai 50, che già è una via dove ci dovrebbero essere i 70, ma perché è una via di grande scorrimento, praticamente extraurbana, è urbana per modo di dire, perché io abito in fondo ad una via industriale, però non, dove peraltro insomma, non ci sono attraversamenti, non ci vanno biciclette, non, anche perché ci abitiamo solo noi, quindi. Però io so per esempio che impatterà moltissimo sulla mia attività quotidiana, quindi al di là del volerci scherzare sopra, ironizzare quant'altro, io credo che sia una scelta che non è stata secondo me del tutto ponderata nei suoi reali impatti sulla vita cittadina, perché ci sono tante zone non così ben coperte dai mezzi pubblici, tanto per dirne una, ok? Per cui rende, perché sai, tanti mi dicono vabbè, ma invece di prendere la macchina prendi i mezzi pubblici. Allora, posto che io sto a 5 km dalla prima fermata, quindi io comunque una macchina la devo prendere lo stesso, ok? Ma poi non la disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere molte delle zone che devo coprire è altamente ridotta, e quindi questo mi mette in difficoltà, non mi mette in difficoltà lavorativamente. Certo, è un cambio di paradigma e i cambiamenti richiedono sacrificio e fatica. Vedremo, noi ci scherziamo sopra, ci ironizziamo, è un po' il tormentone di questi giorni. Mi dispiace che sia diventata una battaglia cavalcata anche da un'altra parte politica che non ci piace, però insomma io un po' di sofferenza, ragazzi, lo avverto, ve lo devo dire in assoluta sincerità, io faccio un po' fatica, io faccio tanti chilometri al giorno e faccio un po' fatica, non mi voglio schierare coi tassisti, no, però io dico che nella mia esperienza personale oggi ho fatto un esperimento ed è stata pesta. Poi io c'ho il piede pesante. Sì, è vero, però insomma guido da oltre 25 anni e non ho fortunatamente mai avuto, lo so che adesso me la tiro clamorosamente, corna, però non mi sono mai fatto male io, non ho mai fatto male a nessuno, quindi credo che un po' di attenzione in più e di verifica del rispetto dei limiti reali che già esistevano sarebbe stata un primo passo efficace. Ai poster l'ardua sentenza. Se sono poster di Avril Lavigne, tanto meglio. Ma, esatto, io c'avevo quello di Freddy, sai che sono c'ho qualche anno in più di te, quindi non allora non, cade a fagiolo. Signori miei, perché sono le 21:48, noi ci avviciniamo verso la fine di questo ritorno di Panta 80 con la Panta 80 Time Machine, che va a velocità regolamentata, e quindi esatto. Andiamo ad ascoltare la prossima songs. Bene, poi rientriamo prima di lasciare salutare spazio ai nostri amici di Balle di Fendi, che come sempre renderanno molto migliore questo lunedì sera, questo lunedì sera dopo di noi. Molto bene, va forte questa macchina. Ti credo, è della polizia. Motore truccato, sospensioni rinforzate, paraurti antistrappo, gomme antiscoppio e cristalli antiproiettile. E non c'è neanche bisogno dell'antifurto, perché ho collegato tutti i contatti con la sirena. E allora, che ne dici? È la nuova Bluesmobile o no? Rimettici l'accendino. We'll be right back. È così, la canzone che mi dicevi tu, non per un attimo sarebbe stata non presente nell'album. Eh sì, c'è una storia, perché questo è un pezzo di Roger Taylor, voluto, studiato, scritto, peraltro ricco della sua grande ignoranza, secondo me apprezzabile, sì. Perché voglio dire, infatti non... è una canzone cafonissima, è una canzone detta sempre in maniera positiva, sì assolutamente, quel cafone che a noi piace, esatto. E però insomma non, diciamo che non piaceva in origine questo pezzo, insomma non, c'è stata una storia un po' frizzante con Mercury. Allora, vi invito a leggere un po' di biografie autorizzate, non su questo particolare, insomma tendono a concordare spesso. Comunque gran pezzo da Live in Budapest, giusto? Live in Budapest, veramente. Live in Budapest, io, dovrebbe, peraltro, essere, sì. Guarda, così faccio una piccola informazione. Vai, di servizio. Assoluto. Vi invito. Se siete... No, ho detto una cavolata. Montreal, scusami. Montreal, ok, molto bene. Non ho un orecchio così allenato da migliaia di chilometri da riconoscerlo. Però, in realtà, se siete amanti dei Queen, sapete che esiste un sottobosco di bootleg più o meno accettati, più o meno ufficiali, dove veramente si sentono delle cose di pregio, perché purtroppo i loro live famosi sono quelli, mm-hmm. Killers, Live at Wembley, eccetera eccetera, però esiste veramente un sottoposco di produzioni anche dei primi anni veramente notevoli. Vi invito a cercare, se non l'avete mai ascoltato, Le Fleur du Mal, che è un doppio CD bellissimo, non tutte esecuzioni pulite, ma veramente una chicca per appassionati. Questo vi invito veramente ad andarla a recuperare. Detto questo, caro il mio Andrea, sono le 21:53, quindi così i ragazzi di Balle Difendi sono fuori. Noi ci siamo già confrontati sui temi caldi della giornata, quindi io non vedo l'ora di lasciare il microfono a loro affinché diano un adeguato contenuto, questa un'adeguata svolta questo lunedì sera, mettendola fresca, esatto, perché siamo sempre regolari. Non, io la metto per entrare, per uscire, per attraversare la rotonda, sono bravo, non è vero, mi dice quando in macchina mio suocero mi dice delle robe, è così, è giusto. Quindi noi torniamo lunedì prossimo, sempre che nel frattempo le divinità di Radio Città Fujiko non abbiano deciso di sparandoci nell'iperspazio con un cannone onde moventi. Coreografico, però. Cioè, voglio dire, con stile, cioè going out with style, lo dicevano anche i nostri amici di Boston, gli irlandesi di Boston, che peraltro 9 luglio pure loro. Basta con questi concerti. Ragazzi, io vado a casa e mi Dropkick Murphys, 9 luglio o 9 giugno, non ricordo. Estate. Sempre a Milano, sempre di giugno. Attenzione. Sempre di giovedì. Sempre di giovedì. Mi sono infervorato. Ti sei infervorato e il microfono ha detto non ce la faccio. Esatto, non si può. Bene, quindi noi ce ne andiamo, lasciamo spazio a chi meglio di noi condirà il vostro lunedì sera. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, ultimo pezzo, un finale in gloria. Assolutamente. Ciao! Tomà, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Andate piano. Tu devi andare il più pulito possibile, non allungare, no. Tu hai l'abitudine di inchiodare. Non inchiodare perché sbattiamo. Sbattiamo, andiamo a firmare, non voglio. Pulito perché usa la frizione sulle cambiate. Molto pulito e molto tranquillo, per favore. scusate, so che avevo salutato tutti, ma devo mandare un pensiero al mio amico DJ Parente che mi scrive: domani sperimenterò un giro di consegne nel comune di Bologna con limite a 30 km all'ora. Parente, ti sono vicino.